va il consiglio che il vago amor riallumina del piccoletto Ortiglio. Volle verde alla prete s'appeggia e al Dio Thank you. Ora sei forse una vita di te.